fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Siete sempre in diretta con Resto Radio Convento, venerdì 13 luglio del 2018, venerdì doc, mentre fuori imperversa la serata al divertimento, tra l'altro la prima serata hot del convento, questo nuovo format, chiamiamolo così, che ci terrà compagnia per tutta l'estate. Noi continuiamo a chiacchierare con gli ospiti di questa serata, che possono essere festeggiati o meno, perché abbiamo quattro ragazzi, un perfetto equilibrio, due ragazze e due ragazzi, almeno così a prima vista. Poi se hanno delle sorprese da dirci e da svelarci lo sapremo tra poco. Quello che è importante, dicevo, è due ragazzi e due ragazze che non festeggiano nulla di particolare questa sera, ma sono qui per celebrare l'estate, per celebrare una serata di festa e speriamo di divertimento. Conosciamoli meglio, partiamo per galanteria, direi, dal gentil sesso. Buonasera carissimi. Addirittura sembra un po' papale questo, questo saluto. Così. Bisogna salutare sempre così. A papale? Sì, papale così. La gente. No, va bene, allora vai, prendi il tuo spazio. Siamo Francesca, la zia e Denise. Vabbè, le presento anche per te, è la tua voce, il tuo avvocato. Esatto. E niente, ci stiamo divertendo tantissimo questa sera, vogliamo un attimo riflettere su quanto sia bella l'estate. Riflettiamo, bellissimo. Sembra un documentario di National Geographic, esatto. Quindi va bene, riflettiamo assolutamente. Vai Melo, faccio una riflessione, presentati, grazie. Prima presentiamo anche gli uomini, giustamente. Allora, io sono Carmelo, vengo da Siracusa. Ehi là! Da Siracusa! Tra l'altro dovete sapere che Carmelo è partito oggi a mezzogiorno per venire qui e quindi si è fatto... Esatto, per essere presente e per sostenere la Francesca, detta la zia, e la Deni, giusto? E la nostra gente, ovviamente. E tutta la gente, certo, assolutamente. E poi aspetta che non escludiamo il nostro amico, anche lui. Rosario da Agrigento. Rosario, che è venuto con... anche lui è venuto, partito oggi a mezzogiorno. Con l'aereo, perfetto. Quindi ci tengono a voi, vedi che... Assolutamente. Ci sono fatti un last minute. Esatto. Per essere qui. Da dove? Vabbè, ma voi abitate qui o venite veramente laggiù? No, abitiamo a Ospitaletto. Ah, Ospitaletto, quindi andate ormai. Andate a trovarli a Ospitaletto. Bresciani da single. Addirittura, esatto. Bello. Tutte le sere dalle 21 in piazza a Ospitaletto, li vedete. Esatto, sono quelli che stanno facendo la maglia. E potete contattarli così, insomma, attaccate bottone e loro fanno calze, calzini, coperte in base alle stagioni. Anche coi nomi, ovviamente. Anche coi nomi. Personalizzati. Assolutamente sì, assolutamente personalizzati con dedica, così abbiamo fatto pubblicità anche alla vostra azienda. Diteci come si chiama il vostro gruppo. Lasquadra.com, andate a visitarli, hanno anche un sito internet che è www.lasquadra.com, chiaramente, facile, seguiteli. E... Esatto, anche su tutti i social network. Tutti i social network, assolutamente. E così vedete le loro opere d'arte che sono favolose, decisamente favolose. C'è anche lo shop online, acquistate numerosi, che è una cosa bellissimo. Importantissima. Tra l'altro vi anticipiamo che solo per quell'estate fanno le prime coperte climatizzate della storia. Quindi è una loro invenzione e le stanno portando in giro per il mondo, quindi se volete tenervi coperti ma comunque restare freschi, approfittate delle coperte climatizzate della squadra.com. E vorrei informarvi anche del codice sconto Melo 10% su tutta la nuova collezione. Fantastico, perfetto. Confermo. E quindi dice, dando il codice Melo. Dando il codice Melo c'è lo sconto. Esatto. Bene. Allora vai, parlateci un po' di questa estate 2018, come la state vivendo, come magari la vorreste vivere. Allora, la stiamo vivendo decisamente bene. Diciamo bene, con esatto. Queste copertine ben Melo, direi che anche giusto. Come te lo mare. Certo, per tutte. Cioè, ormai è uno spot continuo, cioè qualsiasi argomento sì, torniamo sempre lì. Servirebbe proprio il pizzo dello spot, ma non l'ho sentito, quindi facciamo finta di niente. E non ce l'abbiamo, mi sa. Il beat, cos'è il beat dello spot? Sarebbe la musichetta che esce quando... Ah, il jinglino, certo. E come facciamo? Dobbiamo crearlo? Dring dring. Bling bling. Sembra un po' al supermercato però, Lasquadra.com. aspetta, dobbiamo crearne uno qua in diretta con i nostri... L'annunciatrice, guarda l'annunciatrice. Aspetta, dobbiamo crearlo con i nostri ascoltatori. Dai Melo, inventa qualcosa. Il motto, dovete creare il motto dell'azienda. Ai primi 10 che ascoltano, 10 copertine di regalo. No, serve una cosa più bella. Non so, siete voi creativi, quindi. Aspetta, adesso mi viene qualcosa. Tipo le coperte di Melo per guardare il cielo. Le coperte di Rosario. Ario? Ario, aiutateci con le rime. E vado fino a Boario. E vado fino a Boario, sulle mani. Salutiamo qua il nostro amico carissimo. Anche perché ricordiamo che Boario è paese di Terme, quindi esatto. Picnic. Poi quando vi piace andare alle Terme, vi piace andare alle Terme? A noi piace tantissimo, per rilassarci, per passare del tempo in compagnia. E quando uscite bagnati, per approfittare del appunto non ammalarvi, usate le coperte di melo. Che possono anche fare da telo. Se uscite bagnati con le coperte di melo, sarete fortunati. Bello, bello. Ormai è un motto unico, è un motto unico. Va bene, cosa fate ragazze nella vita normale, al di là di loro che fanno... Facciamo partire gli uomini. Io faccio le coperte. Perché li vedo un po' timidi, a parte Melo che fa le coperte. Carissimo Rosario, tu cosa fai? Le coperte con me. Sì, beh, ma loro abbiamo già detto che hanno questa azienda potentissima. E voi cosa fate? Messa l'abbigliamento. Bene. Uomo e donna. Uomo e donna. Che coperte ho? Vendo anche coperte. Uomo vende e donna, tutto. Ovviamente. Ah, perché c'è la coperta da uomo e la coperta da donna. Esatto, esatto. In base al colore. Ah, in base al colore. Al nome, alla dedica. Però, e esatto, tu? Esatto, dovete capire che siamo una società molto unita. Io faccio ancora l'università, studio Strategy Communication e sono la direttrice della comunicazione dell'azienda. La squadra.com. Serve, esatto, serve qualcuno che dia indicazioni. Un'unione perfetta, diciamo. Ci siamo proprio trovati una squadra vera e propria. Perfetto, bellissimo. Questo è l'importante. Perché l'unione fa la forza, sempre. Sì, la ragazza è una ragazza motto, praticamente lei. Cioè lei parla solo per motti. Esatto. Per motti e, come dire, e modi di dire. Mi piace. La vita sono modi e mantra, mi piace. Allora dicevamo, al di là di divertirvi, avete progetti per quest'estate, una vacanza, un viaggio, qualcosa o rimarrete in zona? Il viaggio è la cosa più importante per imparare, anche per conoscere nuove tendenze, nuovi colori per le copertine, per nuovi tipi di calligrafia, per stampare nuovi. Quindi lo dici meno. Noi volevamo allargare il nostro mercato. Dove andiamo in viaggio quest'estate? Volevamo andare o in Spagna oppure in Portogallo. Bella, l'Iberica. Per ampliare un po' i nostri orizzonti anche al Polo Nord. Perché si deve passare dal caldo al freddo, bisogna trovare tutta la clientela, andare in orizzontale. Con le coperte di melo sempre, anche, tornata. Anche se sei nell'igloo, il freddo non c'è più. Coperte di melo per sempre al tuo fianco. Coperte di melo per combattere il gelo, attenzione! Hai visto che roba? Ci siamo, come hai visto? Coperta di melo per combattere il gelo, hai visto? Wow. È incredibile, è un'azienda che fiorirà e a brevissimo anche quotata in borsa, quindi secondo cresce questa azienda. Sì, certo. Sappiate che tra l'altro, parlando di Portogallo, l'avete citato poco fa, dove andrete probabilmente in vacanza, ho letto una dichiarazione del nuovo acquisto della Juventus, Cristiano Ronaldo, che ha detto: vengo in Italia per provare le coperte di melo. Allora, perché ha detto proprio così, ha detto: io in Portogallo non le trovo e quindi ho deciso di venire in Italia per provarle direttamente qui. Assolutamente, io ci tengo a dire una cosa: Cristiano Ronaldo è l'idolo della mia esistenza e quindi questo fatto delle coperte è stata una cosa bellissima, perché lui viene proprio in Italia grazie alle nostre favolose coperte. Adesso parlate voi, che deve venirmi un altro motto intanto. Allora, ovviamente le coperte sono la cosa fondamentale per cui Ronaldo viene in Italia. E l'abbiamo fatta appositamente una per lui, con scritto ovviamente il suo numero 7. Dopo il colore l'ha già deciso, non possiamo svelarlo perché Si può in anteprima, certo. Assolutamente, che verrà segretissimo. Detta da lunedì sui social, anche magari se seguite lui sulle storie potete vedere le nostre coperte. E in questo momento ovviamente non possiamo dirvi niente perché è una cosa top secret. Esatto, tra l'altro volevo anche anticiparvi un'altra cosa, che come dire, Cristiano Ronaldo durante l'inverno diciamo così non ha curato molto il proprio aspetto fisico, ma da quest'estate con le coperte di melo sta proprio lanciando questa moda su Instagram: con le coperte di melo mi tolgo nuovamente il pelo. E è tornato a depilarsi e è tornato glabro. Lo dice Cristiano, lontano. Mamma mia, vedi, brava, questa ragazza è potentissima, dovete assumerla. Dovete veramente darle più quote nella società, perché diciamo è troppo creativa. Lei è il nostro coach. Addirittura il nostro coach. Ci vuole, dai, assolutamente. Dopo che lei sia timida, non voglia dirlo. No, non l'avevo notato che lei era timida. va bene, allora sono un pochettino timida. Ringraziamo anche il coach. Va bene ragazzi, ho visto, poi vi ho visti muovervi, quindi immagino che abbiate anche voglia di ballare, vi piace anche ballare, quindi direi che potete tornare in pista, se vi va, di fare quattro salti. Un saluto veloce. Padella. Quattro salti. Bella. Questa ragazza c'è. Ci siamo. Siamo quattro presenti sardi. Quattro sardi anche in padella. Quattro saldi in padella. Occasione dei saldi. Esatto. Di Melo, anche che dovete approfittare assolutamente col codice sconto Melo, mi raccomando, segnatevelo, Melo. Quindi durante i saldi fate quattro salti in padella con le coperte di Melo e va bene così. Allora grazie mille ragazzi, in bocca al lupo per questa bellissima avventura imprenditoriale. È bello che giovani come voi portino il contributo che serve nella nostra imprenditoria e buon divertimento anche per questa fine serata. Dai, un saluto veloce a tutti e poi vi lasciamo andare. Ciao ragazzi, vi lasciamo con un'altra ora della vostra musica preferita. Ormai adios. una di noi. Oh yeah. Ciao ragazzi, grazie mille. Ciao.